persone. E qualità come mi fa la stessa cosa, allora uno o l'altro devo eliminarlo. Ma questo è il 706. Vabbè, 706 non è, ma non l'ho mai provato. Però non lo fa con 950, capito? Vabbè, ecco, 2000 sì, lo stesso. Pensavo che invece un po' aiutasse. Ma è la modulazione è forte oppure no? Oh, vabbè, non c'è problema. Ma non mi dire vabbè, non c'è problema. Cos'è, modulazione normale oppure bella amplificata? Quando io dico non c'è problema, è la tua modulazione di quella che sono abituato a sentire sempre. Quindi tonalità media alta, bella amplificata, senza problemi. Ok, vabbè, mi sono anche le stazionali. Aspetta un secondo, devo fare qualche prova anch'io, poi ti richiamo, aspetta un attimo. C'era la vapore, ma si va di la luce, dicevo che abbiamo fuso di inverno, una moto.

Well, numero è sempre sovrappato, va a voi. Sì, che giovane ancora, questo compagno, già ha da 50 anni, anche a te, ti passa la lava, ti rimbalza. Prima pensare al lavoro, poi pensare al divertimento, più che altro. Ah, anche di Giuseppe. Ah, chi è che sta cercando il programma d'ora? Cioè, grazie a te, che sei un coglione. Qualcuno, o se lo metti il microfono sopra l'alimentatore e c'è la alternanza. E così nessuno passa. Facendo una precisione che ieri c'è stata una portante con la musica e un intuito io chieda. Sembra il santo in paradiso, sembra. Poi quando è, allora non fa il piatto. Ma facciamo perdere, va. Sì, vabbè, c'erano state un po' di portante l'altro giorno, che mi sembra non ricordo seguito quanti. C'è quello che si è diventato la porta accesa, c'è l'altro che ha messo musica, e vero che cosa ero io, no, non me ne frega niente. E poi poi sono andato al baracchino ieri mattina e anzi, c'era Giuseppe qui a casa di Buda di giù. A casa mia è entrato e ha risposto, quindi evidentemente se ha ciappato male, cosa ne so pulito. Magari aveva pensato che li fossi mettendo con te io e stava mettendo a me Giuseppe. E poi Giuseppe era a casa mia, è venuto ieri mattina qua. Allora la portante ha sentito a cosa facendo, ma c'è la sorella, e quello Giuseppe ha detto no, c'è stata una casa di Antonio, ma Antonio non c'è stata niente con la portante, tutto lì. E evidentemente questo se la va a prendere, cosa ne so, che me la puoi portare a me. E scappa. E vabbè. Comunque si è fregato con le mani sue, si è fregato. Lasciamo perdere mani. A chi uno è un matto che ogni tanto ci prova da qua, da questa zona. Uno non era in questa zona, era più distante. Era. Siccome io non sono scemo, come crede di essere scemo lui, io l'ho già capito, l'ho già individuato. Ma comunque va. Lasciamo stare, dai. Lasciami divertire, mamma mia, sono giovani, proprio. Avanti Giuseppe. Scappa, vabbè, Antone, il discorso è quello. Uno, quando sente la portante così, che ne passa anche la voglia di modulare. Ma, come ha detto a Fabrizio, che saluto con la buonasera, e anche ciao Luca, come ha detto Fabrizio, abbassa il mic e non sente più a nessuno. Il discorso è quello. Quando c'è questo qua con la portante, l'unica cosa è prendere, abbassare il microfono oppure spegnere tutto quanto. Punto e basta. Almeno lui, quello della portante, si modula da solo. Punto e basta. Sì, ma non puoi abbattere il microfono, se abbassi il microfono, scusa, aspetta che lo abbatti tu, abbassi il volume, non il microfono. Sì, abbassi il volume e non ascolti più a nessuno, il discorso è quello, punto e basta, se no spegni tutto, ti guardi la televisione e sei più tranquillo, non devi bisticciare con nessuno, punto e basta. Vabbè, dai, penso di aver avuto un chiarimento. Ok, vabbè, chiudiamo il discorso, che è meglio, parliamo di yoga, di cocco e di altre cose, che ci sta già facendo incazzare questa cosa. Ok. Ma mi sembra che state esagerando. Senso esagerato. Perché ci sono un po' di giornate che non mi piace neanche ascoltare a volte, veramente. Si sta scaldando troppo in questo canale. Io devo darci una calmata a tutti quanti. Comunque, fate quello che vi piace. Io sono in collegio. Papà, io l'ho detto. Io penso di non aver sbagliato di quello che sto dicendo. Io l'ho detto, il problema che c'è è basta, perché ultimamente si sta un pochettino troppo scantonando e a me non è che mi fa piacere, fa tanto piacere, quindi ho chiesto di mantenere un po' la calma, tutto qua il discorso. Sì, vabbè, tu adesso non ascolti, io ho capito, comunque, io me ne sto in ascolto, non mi interessano i discorsi, però cerchiamo di rispettare anche chi è in ascolto e essere un pochino più educati. Quando si scherza, non è ora di venire a provarci, ci sono bambini e quindi ci può giocare più tardi, ma voi fate quello che volete, quelli che ci permette, ciao a tutti. No, ma per esempio c'è questo che sembra un maialino, sembra un maialino, e tu non lo senti, ma questo è uno che c'è vicino a me. Però guarda, non mi interessa niente, se la pensi così non lo so, io ho detto quello che è il problema che c'è, non è che ti sta accantonando né niente, io te l'ho detto che c'è questo problema che ogni sera si gioca un po' troppo, si gioca, dà un po' fastidio, dà. Tutto qua e non è che stiamo scantonando niente. Ok. Ciao a te, tu cerchi di capire. Ho detto, stiamo un po' scantonando tutti, capito? Non tu, no. Non quello che hai detto tu, stiamo un po' scantonando tutti. Quindi, se vogliamo che ci continui a parlare in questo canale, è bene che ci diamo tutti una calmata, capito? In generale sto parlando, compreso anche io qui. Un po' di tranquillità, un po' di calma e si va avanti. Diversamente così a me non mi interessa. Ok, a tu. Già, Pacla. Non è che ti hai capito molto, perché c'è questo che sta rompendo le scatole. Una mezz'ora. Eppure anche di tipite che le altre. Stai attento con me, perché ti capoteggio, mi stai rompendo le scatole. Ecco, continuate voi, dai, che non ci voglio arrabbiare stasera, va? Caso c'è questo qua che tu non lo senti, a te non ti arriva, che ne stanno uscendo gli occhi. Ok, dai, continuate voi. Via, via, non continuo niente, io continuo a guardare la televisione. Ciao Giuseppe, Antonio, quanti fossero in questo canale, ciao a tutti. Ciao, fra, da voi. Ubi, hai finito di attaccarmi? Non vengo ancora a letto, vai la signora, come? Vai la signora, andate a letto, dopo già vengo, mi fai da bravo, mi raccomando, ok? Non c'è Giuseppe, non mangino male a Giuseppe. Per me Leoncino fa quelli lì per sempre. Oh. E paroloni per sempre. Cappa, Leoncino non c'è bisogno di avviarci così. C'è stato un chiarimento e basta. C'è stato. Non è che sia successo niente, hai capito, siamo calmi e presto. Allora, te non ti passa nemmeno, Bumburi, non ti passa, io la sento, ce l'ho sentita, ma è talmente bassa che non ti passa, quindi non ti devi mettere problemi, ma ce l'ha con te, perché è sempre quando entri tu ci sono queste cose, e qualcuno vicino a te, ma non la passi, cioè sembra vuol dire che non ti passa, io nemmeno la sento praticamente. Ma quello già lo so che è vicino a me, beh, non mi vuoi, non passa a me. E chi se magistura, se no l'avrei attaccato una metà cosa, l'avrei attaccato, avrei se riesco a farglielo saturare quel baracchino di quattro soldi che c'ha. Cioè, però non già lo so, non c'è nessun problema, non c'è. Oh Fabri, lo so, ho detto sbagliato. Ma non c'era bisogno di incavolarsi queste cose, c'era una piccola incompressione e basta, tutto qua discorso. Ecco qua. Ecco. Avanti. Buonasera, ben sentiti a tutti da questa parte, Antonio Grosse. Ciao Antonio. Radio ascolto da un po' di tempo. Anch'io avrei da dire la mia, Non alimentare i fuochi, che non è successo niente. Ma non sto alimentando nessun tipo di fuoco, perché non ho sentito a proposito che cosa sia successo. Ma sentito solamente fare un po' di troppa morale, ma non da parte degli astanti, ma un po' in generale, dico, ci manca solamente che adesso entri il Falcone e faccia anche qui la morale. Allora, ognuno di noi ha colpe. Quello che mi fa ridere è che si approfitti di un giorno dove abbiamo palesemente scherzato per riversare le colpe davvero di tutto quello che sta succedendo, cioè del fatto che si sta oziando, perché non ho sentito altro che parolacce, non ho sentito altro che di tutto, pernacchie, ruti, gente che trasmetteva di tutto, ho sentito selettive, ho sentito di tutto, e dopodiché ci scandalizziamo perché per due giorni, anzi per un giorno, abbiamo scherzato a metterci la portante l'uno con l'altro, forse stiamo esagerando però, Sono provvedimenti, non sai che noi stiamo qui a dire cazzo, cose cazzo, capito? Siamo quei provvedimenti, bisogna metterci d'accordo con qualcuno, cercare qualche persona e pagare a pagare. Tanto visto e considerato che noi paghiamo la scopozza, le smatte, la minchia, le altre cose, dobbiamo essere noi. Ci mettiamo d'accordo, uno c'è macchina, ci cerca. Così vediamo le loro proprio le palle. Di uno lì. Forse mi sono perso metà del discorso, comunque non ho fatto abbastanza radioascolto e ne chiedo scusa, però evidentemente stiamo oziando, evidentemente o troviamo qualcosa da fare di pratico, oppure realmente ogni tanto ci inventiamo qualche problema e lo autoalimentiamo, poi quando non è questo è altro, evidentemente stiamo andando davvero male, evidentemente. Fatto che c'era poco per la portante, cioè, la metteva a me, la metteva Giuseppe e poi la metteva Antonio. E eravamo in uno GPT, un tipo, non lo so, tornato, quello che. E in pratica si giocava con lo shipping, capito? E poi questo trucco qui, l'avevo detto io l'altro, quando era una settimana fa, una cosa non c'era. Era quella. Ma già mi ha fatto asciutta quella per facevamo volare gli altri così. Infatti poi gli ho detto, guarda che per facevamo volare le persone bisogna che ti mettete il microfono per cantare l'alimentatore. Mi ho detto, ma che cosa fa? E non perché giochi con i shipping, gli ho detto. Perché con te bene non mi viene male, anche addirittura una cosa. Quello scherzetto va bene con Kemon. Se lui c'è il Kemon si può divertire in ballastrale, se no quello scherzo non esce, perché non funziona. Se invece, proprio per dare motivo, dico, all'apparato di esistere, avessimo organizzato qualcosa anche per avvenimenti come quello che c'è fra poco, e se c'è Gianni Doppio Rum in ascolto me ne darà atto e ragione, tra un po' c'è la processione dei martiri turritani sulla 131. E quello lì potremmo essere d'ausilio alle persone pellegrine che fanno sulla 131 la camminata, capito? Chi ha la macchina, ci possiamo mettere d'accordo e fare questa cosa qua. Mamma mia, l'area pellegrina, che l'ho fatto 5 anni, lascia perdere che vengono a sventare un po' di risorso, che salgono ubriachi, che ti tirano a calcio la macchina, capito? Poi passi casini, perché non li puoi manco picchiare, per dire. Lasciate che abbiamo fatto 5 anni con la cosa lì, guarda, forse è molto meglio fare la cavalcata se ci mettiamo d'accordo, basta andare in quell'ufficio per un po' di posto, chiedere se possiamo fare la cavalcata, che forse è l'unica cosa che è molto molto meglio, ma è più sicura. Cos'è che hai contro sotto tu? Capitato. Sì, ma guarda che ti hanno chiesto, forse era Vannino, ti ha chiesto che cosa c'hai contro sorso, apri lo squelci se no non lo senti. Non c'è niente contro sorso, Vannino, non è per te, che c'entra. Quando hanno fatto la salsa di pomodori a piedi, salivano dalla via Sorso che erano appena dire. Arrivava all'incrocio, solo se potevo per andare da 131, dove di vedere ogni tanto qualcuno da parlare, compie le macchine, c'è che si beve. Questa cosa qui la parla di tutti quelli di Sato, non è che lo fanno solo quelli di Sosso, salgono col bruciolo del vino, quando vanno sopra già morti. Non c'è niente in quelli di Sosso, se non serve a niente, non preoccuparti, ci mancherebbe. che fai con quello che so? Hai detto bene, sono un bel paese, ma sono ma vabbè, dai, vi lascio, buonasera a tutti, sto facendo l'altro. Era giusto per salutarmi, dai, diciamo che ho trovato la scusa. Non ho capito cosa è successo prima, ma comunque, va bene. Però e ne arrivene una. Gigi, ero io che mi mettevo la portante. Dite le paricose. Metto la portante a tutti, non mi faccio più modulare. Sei matto, se la c'è, è andato anche qua aperto. E sarà chiuso, adesso c'è questa tanta. Levati, sollevati, sei bassino. Vedi come niente. Uno vuole essere tranquillo e dice solleva. Questo ci ho attaccato adesso, questo qua ci ho. Sì, ma se basso di radio però, il segnale è buono, ma la radio è bassa, sembra che si dentro un coso, una cantoniera. Io non so quanto c'è, aspetta, ma sta, che è il tocca di pubblica, mannaggia, guarda a vedere se è successo qualcosa. Vedi qualcosa in più, già, lascia così a tutti i bimbi, zappa, zappa. Allora tu, se vuoi farti la cavalcata, andrò a cercare il presidente del, come si chiama, del soggiunto, dell'assessorato soggiunto del turismo, mi pare che era buono, adesso non mi ricordo più come si chiama, la verità. Vado a cercare quello, almeno ti becchi la cavalcata. Anche se una volta davano mi sembra 50 euro quello che era, ma almeno di subito non fregava niente. Più che altro era l'ho fatta per niente, guarda, io sono di Nave Burger, ho detto. Compriamo degli apparecchi, dei baracchini, quelli portati di quello che è, tant'anni usiamo noi. Tu qui te ne hai. Non so neanche che fino a fatto quei soldi, di una di due. Da quella volta io non ti ho fatto cavalcata. No, perché ci sono parte di quelle associazioni che se la mantengono, quello che mantengono, perché danno soldi a tutti i bimbi, perché poi dovrei fare gratuitamente, oppure se ti aspetti su, a parte che se anche te li dovessero dare, se te li concedono, te li danno l'anno, due anni dopo, quello là, la Rabildi, che non è così. Fabrice, cosa stai facendo? Comprando altro portatino, un altro portatile. Questo qua in Quaranime, così in Francia e Tramega. E cos'è? Di che modello è? Un Alan HP43 Plus. Allora senti tassisti? Non lo so se senti tassisti. Auto controllando, però l'avrei voluto resettare, ma non ho trovato ancora come resettarlo su internet. Volevo vedere un attimo fare un reset, perché 40 canali mi stanno 23, quindi era resettare magari. No, sono proprio 23, non è che siamo 40 canali, sono 23 canali. Claudio, attenzione, Claudio Sparviero. Stai guardando la TV, Claudio. Vabbè, comunque sono 23 canali, non sono 40. Se vuoi lo puoi modificare e sale più su, però sono 23 canali in tutto, i 43 mega. Non lo so, io mi è capitato questo presore che hanno aiutato del materiale e c'è anche questo in mezzo, ascolta. Dico, tu sai per caso come si resetta questa radio? Guarda, non lo so, la verità non lo so, perché non mi è mai capitato fino a parecchio di anni, infatti non sapevo manco come provarlo, per dirti. A meno che non chiami qualche tassista, qualche ambulanza, ce li hanno loro in mano questi apparecchi di 43, lo usano le ambulanze, il CISO mi sembra ce l'ha, e qualche altra cosa. Comunque i tassisti ce l'hanno sicuramente perché li ho visti gli apparecchi, c'è Antonio Verventi al Dimit. Adesso non mi sentirei senz'altro, non so che canale siano, comunque, la verità, non mi conosce 18 o 19, comunque. Non lo so, poi, no, siccome è un po', volevo far capire prima di aprirlo e controllarlo, trasmette sì, ma non sta ricevendo, però magari poi tutto qua, di tutto, mi sono capitato di andare a riparare qui 43 MHz, costava una cazzata un po' e poi non ho mai preso, neanche me ne prendo un paio, sai che ce li ha i 43 MHz, ce li hanno i cibi di Alghero, ce l'hanno quelli di Radio Club di Alghero. Potresti chiedere a Coso, a, come si chiama quello che tenta il baracchino di Alghero, che si mette a modificare i baracchini, eccetera, eccetera, non mi ricordo il nome adesso. Sandro, se lo sento qui devo chiamare il viso d'acqua, ma è un rese che generale che devo fargli, perché tutto qui, è un bel apparecchietto, dovrebbe essere funzionante, però sono belli come apparecchietto, tu c'è adesso un bel, c'hanno un po' di canali anche, caccia, pesca, per fare altre cose. Puoi fare anche la concessione volendo per quello, paghi 12 euro come noi. Lui già aveva le batterie, sembrava morte, invece c'ha le batterie ricaricabili, l'ho tolto, ho fatto una pulitina, l'ho messo 2 secondi, già tenuto la carica, quindi stanno prendendo carica, già quello è buono. È facile da fare che 15 ore in mezzo questo qua, lo sto testando. Noi vogliamo, non lo so. Devo fare un reddito prima di aprirlo e controllarlo. È una stanchezza. Ascolta, parliamo di cose più serie. Parliamo di cose più serie. Chi c'è rimasto? Io, tu, Bombo, il Grodde e Lucariello. Avanti Lucariello. No, non c'è Luca, che c'è la riunione dell'arcigliere di oggi. A tu vuoi. Ehi tu, non ho sentito niente, no? Che c'è? Orecchione. Non ho capito, cos'è? Ha detto Grodde che sei nel circolo dell'arcigay. E dove va lui? So che lui si fa chiappettare, io no? E quando non chiappettano la fanno, io per i capelli lo tengo. Ehi, per i capelli, se non era capelli lo fanno per la scena, ci dai i peli, lunghi lunghi. Vabbè, tu vedi un amico su Facebook, ho trovato, ho pubblicato questa tipa, un po' la sottella, cioè va in mezzo tra gambe, mezzo le gambe, la scena c'è la sei parrucche. C'è una tinta brass, con le ascelle pelose. Si incanta il microfono, guarda che i capelli fitti se ne mettono le brasiliane sopra e anche le negre si lappano a zero e si fanno le parrucche loro stesse dei capelli loro, vedono di tu qui si lavano i capelli in lavatrice, ma tu non ci credi, li ho visti io lì. Diciamo solo non ci avevo neanche creduto la verità. Dico, ma ecco questa parrucca, questi qua ci sono i capelli miei, mi ha fatto bene le cose, se li cucivi, non so come diavolo li incollavano, non ho capito se li cuciva, i capelli loro si facevano a zero, dopodiché ci facevano una parrucca, questo cambiavano colore, marrone, verde, di tutto usava. Non sono quei capelli che si fanno, no? Sì. Guarda, non avrei detto, non c'era il credito, ti giuro, c'era la voglia di cosa, di subito si chiamava Ivan, dove si chiamava lui, prendeva la birra del mio bimbo e quando là. Ho detto che avevo con i capelli corti, poi mi voglia tirare con i capelli lunghi, gli ho detto che si vede se avevi i corti, no, dice la parrucca mi ha messo. Cattane, cattano scure, boh. Io sono in ascolto, sentiamo. Ivan Graziano si chiamava, Claudio Sparviero. Sentiamo dopo. Allora se in ascolto ci sentiamo dopo. Se ne voglia, se non fate come volete. Se ne voglia. No, volevo commentare solamente come non si può scherzare, capito? Tutti moralisti sono diventati. Nei giorni passati chi utilizza il linguaggio ne guarda in tutti quelli colori, di casino, dopodiché scherziamo un giorno e patatrac. porca miseria, ma qui figliatela con qualcun altro, ma non con me. Non la prendo con te, lo sai che ti sono amico, però sei anche fanatico. Io non sono un frate. Ma un frate, che a volte si mia. Non me ne fai per la chia, lo sai, non fai il nocchio. Troppe, niente Gigi. Ma posso dire una cosa? Che vi dire, ci mancherebbe. Tutti questi, stanza le zone, sarebbero stati. Come serie B. Sassari e nel turno. Il turno di Sassari non ce ne ha. Mi dispiace che ti ho ben incontrato, però come Alessio Pomponio, meglio come la serietà che c'è Alessio Pomponio, non ce ne ha. Gigi, però guarda che il gioco delle bugie lo facciamo dopo, eh. Adesso stavamo facendo quello della verità. Questa è la verità, io lo dico perché qua come serietà dietro questi apparati, questi giocattoli, come Alessio Pomponio, come Antonello, come lo potete chiamare, secondo me è il numero uno, nello preso all'altro, ma lui è il numero da parte a lui. Come serietà, come serietà e comportamento. Innamorato se ne mi, cosa è successo? Ringraziato che sei, che tu sei. Ah, in quel tono di segnale, per favore. Ah, aspetta che ti abbasso, no. Devo andare a recuperare il coso Twitter da coso. Qui vicino, al sanatorio. Allora, non ho capito. È saturo, è un beato come segnale. Saturo perché sono vicino. No, no, saturo perché non sei accordato bene, qua. Sei ancora freddo, poco fa sta uscendo proprio perfetto. Anche stavi con padre chiaro chiaro. Anche adesso sono saturo. E ancora. È freddo qua, è ancora freddo, posso scaldare un pochettino in più. È freddo, quando lo fa subito quando è freddo, quando lo voglio dire. Non che sei. Ecco, io sono saturo lo stesso. Sembra. Guarda che leggermente è stato lo sto dicendo di troppo, alla prova. Forse siamo troppo vicini, non lo so. Secondo me, vabbè, forse stagiamo un po', facciamo scaldare, ma qui è normale, è 9.45. Sta arrivando il salto lì, siete attaccati praticamente quando ti corichi di pochi piedi a Pomponio. No, aspetta, ha fatto la prova poco fa, mezz'ora fa. Io non stavo uscendo il saturo, perché si è stabilizzato, usciva perfetto con il coso, con quell'apparecchio che stavo usando, con quello che ho gestito, cosa metto. Non si notava neanche che era attaccata, perché si trova solamente la ventola molto forte e basta. Ti immagini a coricarsi a piedi e Pomponio? Anche io ti ascolto il saturo, Ottola. Leggermente saturo, ti ascolto. Forse sono con 50 watt, mi sembra strano. Mi ascolti saturo. Mica come a uno. No. Sei troppo alto di watt. Bene. 50 class sono, non male. Te sto dicendo. Poi mi ascolto anche con 2009, te sto dicendo. Se sentivi saturo, guarda. Resta contento, perché io ho l'antenna a dire che faccio sotto addirittura la 50, guarda. Cosa è importante? No, perché c'è un problema. Adesso scendo. Sarà di nuovo a 50. Sarebbe anche accettato anche l'avvento addirittura. Non è male, è ora. No, secondo me siete voi troppo vicini, Casper, scusate, ma... Secondo me siete voi troppo vicini, io riesco tutti e due bene, di Romazzatura non ne sento, anche se siete troppo vicini. Aspetta, Fabio. Subisco per me. rispondo con quelli che sono anche a... Allora, io sto usando la 58 nella stessa pausa dell'aggettiva. Allora, siccome sto usando il termine 9, se io mi sento chiaro, dovete sentire che chiaro anche Claudio, perché io ho delle segnali che sono proprio in fondo, però quando quella testa è appena acceso, che è in disaccordo ancora, non so quale del valore, lì fa leggermente saturazione, questa l'ho dato a basso, usciva perfetto, non si sentiva proprio nessuna differenza, sentiva solo per la differenza del segnale, non della radio, perché era perfetto cosa lenta. Adesso è quando l'ha appena accesa, appena l'accordi con l'attrezzo, fa così, perché fa così, fa leggermente saturazione. Capito? Ho capito, magari adesso scalda, vai. Claudio, allora, Grotto lo vuole, io lo voglio, tu mi hai detto lo vuoi, a qualcun altro serve qualche commutatore di antenna? A me mi serve l'FT 101. Il commutatore sto acquistando, se serve a qualcuno, libero, che portano poco e le facciamo fare un pacco lì, invece di facciamo fare solo un pacco. Ma quanto? Quanto? Ah, non lo so, intorno ai 15 euro forse anche qualcosa meno, così esagerando, bisogna vedere quanti siamo e quando arriva, per rivedere le spese di spedizione, però costano poco queste altre commutazioni. Caffa, ne ho uno che no, non ho mai usato, nuovo nuovo. Vabbè, allora non ti serve a te, dai. Che marca sono? Mio è Proxel. Questo è un Open, ecco, Open, comunque io uno, io quando lo sto usando io, ho applicato uno l'anno scorso e va più che bene. Un kilowatt, 1000 watt, trivie, con una cazzata, e l'ho controllato e tutto fa bene, quindi lo sto usando già da un anno, problemi non mi ha, anche perché il costo è praticamente a quel costo è regalato. Gamba, non c'è problema, dai, se mi viene, a capo domani, mi chiamo e te lo dico. Gamba, perché ne ho uno che non ho mai usato, nuovo nuovo, ancora, dentro la scatola. Gamba, Claudio prova, quello lì stai usando. Sto usando un altro canale. Sì, un chilo, la ragazza di Claudio a fianco si è messa a provare. Un chilo, va che sì. Tu lo metti a centro e toglie completamente, esclude dire perché un micro dentro l'ho aperto per curiosità, sotto il coperchio che è metallo, e niente, ho visto che lo chiude proprio completamente, poi come dire sono delle lamelle, delle robuste che fa contatto, hai capito? Sì, però la massa ce l'hai sempre comune, il discorso è quello. Il bello è il comutatore che ti esclude la massa e anche il positivo, hai capito? Quello sì che sarebbe un bel commutatore, perché nel caso succede magari che c'è qualche fulmine e possa scaricare allo chassis del commutatore, arriva lì, si blocca lì, hai capito? Se la massa fa arriva al baracchino, questo così. La massa è comune del commutatore, lo sai che tu, è il positivo che ti fa la commutazione, non la massa. La massa è comune a tutti e due i PL. Ma Claudio ho fatto, Non lo so. Voce. Ciao da Claves, da campo. Con la paravana. Quello che ti stavo dicendo, ve lo devo rimandare, vabbè, vediamo da avanti, se no tagliamo fine questo amplificatore. Dai, continuate, già sono i Quarix. Claudio. Dimmi. Vai, 14. Mamma la... Chi c'è rimasto questo canale? Quarix. Un attimo di pezzettino al cane dentro ogni 5 minuti in camera qua di venire da coricare, te lo immagini? Dove finisci un gnocchi? Canale 10. Ce l'ho mandato a Cagliari a fare la modifica. la TV Bonini, giusto? Conta. Sì, sì, sì, lo sto facendo fare. Come l'ho quanto? Io sono zocca. Credo di sì, non lo so. Adesso vediamo. Quando me lo restituisce vediamo un pochino, dai. Non c'è problema. Ma gabba. Quanta posizione c'ha? 2, 500, 1000. Ah, Gaier. Cioè, no, non è a... Scusate, un, due, tre, quattro, roba così. Ne ha due, o uno o l'altro. È un bel grande, è un applicatore semi HF, capito? Dei 10 metri. Quindi c'è due potenze sopra. Alta e bassa, capito? 500 watt la prima e 1000 la seconda. Caffa. Ma chi è quello che ti ha dato conto? Sì, quello che mi ha dato, che ho comprato da Pietro Braccio di Ferro. Caffa. E già lo conosco quella roba lì. Mario. Dai, dimmi Fabi. Niente, vi saluto, io sto per chiudere, però sto facendo quell'ordine di quei commutatori di antenna a tre, quelli là, quanti, uno o due ne volevi tu? Ma quelli che contano la casa? Sì, quelli che ci vengono esagerando, 15 a testa, forse anche di meno, però 15 a testa esagerando, eh. Senz'altro. Lo faccio fare il voodoo di culo a me. qualche volta, poi viene abituato a usarlo e pompava tranquillamente col signor Tart. Non ti accorgevi che c'avevo neanche attaccato da Denia, figurati tu. No, adesso già va bene. Non c'è problema, io devo fare ancora gli accorgimenti, dai. Adesso una prova giusto per capire un po' com'è la situazione. Sì, devi studiare però, piano piano devi studiare. Perché devi saperlo anche usare. Adesso i primi giorni ti trovi un pochettino male. Una volta che puoi usare, sei tranquillo che una volta che scalda, non è come il Fuji 31 che c'è solo 100 watt per dire. Accendi dopo 3-4 minuti che la valvola è calda, esci per dire 120 watt, non sei esatto. No? C'è la cosa di volumine 1, devi farlo scaldare ma almeno 4 ore 20 minuti, se no le valvole lavorano male. Stanno bene adesso, il problema è che devo ancora vedere alcune cosette, non c'è nessuna difficoltà per il momento. Vabbè, più così. Sono contento almeno che funzioni, che sia a posto. Il segnale è con lo scala nella 50, nell'alto sì, con l'orizzontale. Tu mi stai sellando là. Con la direttiva 635, quindi la voglia che poppa, la differenza c'è. Sì, già va bene. E io ancora devo sperimentare che ghiacciato, che non scalda niente, c'è questa ventola. Una bomba veramente, bel amplificatore. Meglio così che vada bene, che funzioni bene, almeno lo utilizzi e ti diverti un pochettino. Che posso sapere cosa vuoi scoprire? Ah, che sito questo cazzo in realtà. Non c'è più nessuno, tutti andati che sono. Non ci sono, o io. Antonio. Yeah, K. No, va bene, Clara, il cassettina. Ma adesso anche la ricezione va bene, sì. Sì. Però devo vedere alcune cosette, lo dobbiamo rivedere con Roberta, non so se. Appena va in fine glielo porto io. O ci vediamo. Ci vediamo a luglio, capito? Non lo so, adesso mi dovete tenerlo così e riprovarlo, di vedere un po'. Immaginati che c'ha 40 mA di assorbimento le valvole, è un BEMI. C'è l'assorbimento le valvole anche, 40 mA sta un assorbente. Ammara, quanto consuma per stare accesso? Guarda, 40 mA già c'è il consumo, sicuramente già c'è il consumo. Ti dovete dire se posso sollevare un po' di più la radio o se va bene così la radio. Va benissimo. La mia radio che è questa, cioè la radio di sempre. Ma io ti sento benissimo. Buon pugno. Sì, io lo sento bene. Ascolto con il 9, lo sento benissimo. Aspetta un attimino, Antonio, c'è qualcuno che mi ha chiamato. Chi è che mi chiama avanti? Chi sei? Gianni da Chiaramonti. Ehi, già, un po' di QRM c'ho stasera, è un casino. Mi ascolti bene lì a Chiaramonti. Certo, sì, a Budusor, ciao Pinocchio, buonasera, ben ascoltato. Bene, mi ascolti via a Budusor. senza sapere se arrivano alla radio o no. Se mette a quinta potenza lo sento, quasi 9. Beh, non ti sente lui a te. Vi saluto a tutti comunque. Non c'è problema. Ah, certo, io bombolo. Ma le mando i saluti a Pirocetto, quando è a Sassoli, che ci sentiamo sempre. Quando arrivi lì a Putuzò? Più di 9. Ah, oh, va benissimo. Ti auguro, va benissimo. Hai detto che andò. Riesco a fare bene. Devo avere qualche disaccordo per la seconda potenza. Poi mi dico come arrivo a fondo scala. Quando sali a seconda potenza devi fare una regolazione di tutto là. La faccia fare il BB 2001 a me. Devi stare sempre accordato da uno scatto all'altro fino al quinto. Se c'ha 5 scatti per dire, ma se ne ha 3 fai uno scatto, fai una prima regolazione. Poi al secondo la stessa cosa. Per cambiare tutto, capito? Questa è Rolando, finché la roba non è chiara. Ancora forse ti stai confondendo con lui, è uno. Questo è un Kenwood 707, è un... se lo sto usando quello del 50, è un decametrico, capito? No, non è una potenza, questo c'è alta e bassa e basta. Poi c'è il driver che dà che accordo le valvole. E boh, poi c'è tutta la parte AM, FM, SSB e bimbo, non c'è problema. E tipo il piede 922, mi è una cosa del genere. Io gli ho capito già, però se mi sento ricordare cos'è quello. Tipo, come ci dice? Che era tipo circolante, no, questo non ha niente a che vedere con il 2001. Questo c'ha due valvole, c'ha due valvole e il marchio 211, non ha niente a che vedere. Thank you. bene, pielle buone soprattutto. Pielle buone ci vogliono, e no guai. Infatti già c'è pienelle, il pielle anche non io, non c'è problema. Già va bene. Ottimo per la truffa. Se prendi Antonio, ma come non c'è più nessuno? Vabbè, si è staccato. E non c'era Antonio Grobe, chi c'era? Vulcano, non c'è più nessuno. Che buono lo so. Sono tutti spaventi, mi sembra a me. Meno meno. C'è andato nessuno? No, sono pielle di vetro ad alta temperatura, quello che c'è sulla Mantova. Sotto c'è quelli invece in Teflon robusto, che sono quelli Amphenol. E quello speciale che sto usando sono due pielle normali, quindi non mi fido, allora lo teniamo alla prima potenza, non succede niente. Già va bene. Pensavo che era in macchinista la cosa. No, il vetro. Sono pielle speciali che si usano per le alte potenze. Ah, già va bene, dai. Ma mi hai raccontato una bici che è stato copiante, è davvero, Sì, ancora sopra il piede 922 gli ho fatto un buco che è stata la Mantova allucinante, era una M. Sono passato, ma piede 922 è più alto di questo. Perché sono passato in FM. Ho girato in FM senza accorgermi, mi ha sentito un fiago gasto. Il segnale che si è abbassato a zero. Sono salito sul tetto e c'era l'antenna con un buco che è allucinante, ma erano 1800-1900 watt, importante. No, un po', devo passare in aria. E beh, in FM le dà tutta la potenza, capito? Se io schiaccio qua in FM adesso, vabbè, c'è la potenza regolabile qua, quindi non è un problema. Però se passo in FM piatto da doppia, da 500 va subito a 1000, quindi bisogna stare attenti. Grazie a te, si è scherzato. Non è un giocattolo, questa cosa. Secondo me, con quelle cose, la Mantova è troppo... con questi amplificatori così grossi, la Mantova è troppo leggera. Vorrebbe un'antenna più consistente. La Super M è fatta per 3000 watt, non mi va di nulla. Sembra che ne peccati 2000. La Super M 24 ce l'ho io, no? Ma la Mantova no, non le fa assolutamente niente, già va bene. Se non superi i 1500 watt di picco, non le fa niente. 1200-1300 ripiene tranquillamente in trasmissione, non è un problema quello. No, ma devi sfruttare 2 kW, la Mantova non va più bene. Ci vuole una trantella che stecca almeno 5.000 watt. Io puoi usarlo 2 kW, cosa che fa? Non le fa assolutamente niente, cioè vabbè, mi ci metto la ribiella, vedi, se più un'idea che cosa ho, tutti belli freddi, tutti belli freschi, ma alla grande, sta funzionando tutto alla grande, dai, cioè vabbè. Caffa, ma la Superman quanto tiene, Pompo? Quella 4 radiale normale, mi sembra che tiene 5 kW insieme. Non mi ricordo che sembra che sono 3000. Così, ma mi sembra che non è normale che tiene 5 kW. Non è normale. sentire il ciclo di fiuto, fate meglio, meglio così. No, ho un'antenna, solo che non ho, tutti usavano una mandola adesso, capito? C'erano satellite, in realtà non ha mai dato fastidio con l'antenna. C'erano radiali belli lunghi, ne ha 4. Poi c'era quella, mi sembra che quella della... la 5, quello che c'era la Super 16, adesso non ricordo bene come la questione. No, comunque vanno bene, è che la gente non si fida a comprarle, però le LED sono buone come antenne. La Super LED perlomeno è buona, va veramente bene. Super LED. Ce l'hanno avuta molte persone, ce l'hanno avuta, però costa, mi sembra che costa intorno ai 120 euro, costa 130 così. Ma sai come si chiama questo amplificatore, come lo chiamano? Globetrotter, sai cosa vuol dire? I trutombe, cavolo da battaglia. E si andava a vedere. Però dice, mi sarebbe piaciuto farne uno, guarda, l'avrei messo volentieri, cioè avrei avuto la possibilità, l'avrei preso uno di questi. L'avrei preso volentieri. Allora, ma qualche volta ma l'avrei attaccato, avrei messo gli così, il capo grosso prima di tutto. E poi avrei messo dei buoni PL in macchinista. C'è roba buona, dai. Beh, ci vuole la roba buona, sì. No, ma i due volte dell'850 è ancora più grande del 940. 940 è una guardia grandissima. Questo è ancora più grande del 940, capite? Va bene, va bene. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare da fuori. C'è nessuno che vuole entrare sul canale 10. Non sento nessuno, che prendi Antonio? Aspetta che ho fatto scuba e pisare, mi sta sillando. Vieni 2 minuti alla prima delle balle. Ho fatto la pipì, poi c'ho... No, senti piangendo. Scusi. Andiamo? Ah Claudio, vieni qui. Fulcega. Qua c'ha paura della voce, dato quello di Antonio Falchetto, come sento la mia voce, si vuole abbaggiare. C'è paura che si suona. Mi ero fatto una roba, ma è impossibile che parlare a questo palo. L'amplificatore non scalda, il cazzo ghiacciato, può essere stato un vento omicidiale. Che non sei contento, me lo raffreddare, tranquillo. E lo senti? Faccia. Vuoi uscire? Usciamo la presa. Che bravo Claudio, mi. Ti tocca la pasta, di forza. Vuoi la porta a fare la pipì là, voi così non si sono messi in ragazzi. Ehi Antone, non c'è proprio, sono qua ancora per un po', poi per chi ce ne andiamo avanti o bombo lo vedrei. Tanto ne va, aggiungiamo, poi fate questo problema. Giulia, la gamba stampa tu. Hai lavorato hai oggi? Sì, lavorato a dire poco, tanto, lavorato a dire poco, parecchio, pure. E domani sarà Matteo cosa ormai c'ho a Leoni, Autosburgo all'aereo, stanno facendo, svuotando un sollevamento e devono mettere le pompe nuove. Toccherà scendere anche sotto a prendere le misure dei piantoni delle pompe, cazzo. Seguo sempre mezzo a mezzo. Ma sai che noi ci abbiamo risolto la busta fisica in deposito. Dopo 10 anni non l'abbiamo mai svuotata. E come mai? Vuol dire che non vi dà nessun fastidio. È talmente grande che non dà problemi. 10 anni non si è mai riempita questa cosa fisica. Vabbè, americano, cioè come intendi? Americano, euria. Allora, vabbè, la faccia si dica. Se funziona bene, non ci sono problemi. Scappa, ma quando generalmente una casa, ogni quanto vuole svuotata, penso ogni volta all'anno, attimo per metterci, perché poi fanno la palla ed è un casino. Chiaffa, non penso che sia Mugnambetta, la contrattistica non è un coso, come si dice? È un contenitore enorme. Sì, è un bastone interrato sotto con delle vasche di accumulo ben isolate, capito? Già tengono bene, però poi bisogna vedere nell'arco degli anni cosa succede. Mi lavo tutto, non mai più da. Anche ogni tanto è meglio sempre farlo svuotare, capito? Sempre meglio farlo svuotare. Ma è vuoto, se no si salva, e se non sono a galla. Che passa così, quando è piena, riesce tutto il colpo a un casino nero. Se non scende, cosa fa? Se una cosa del genere fa. Altri problemi, altre cose che devi pensare, ma che anche via so, di una giocana qua, la verità. No, non mi va. Oh, che mamma mia. Così nota che non perderà. Non comment. Il carattere di una persona è così. Non è che puoi cambiarlo. È così e basta. Già va bene, già va bene. Dicono che già va bene, già va bene. C'è nessuno che vuole entrare sul canale 10. Avanti, c'è posto. Sto ascoltando, continuate, continuate. Mi stai ascoltando? Perché mi ascolti anche lì? Sì, anche? Anche lì mi ascolti, ho detto. Ho detto che ti ascolti, io ti ascolto sempre. Siamo molto rilasciati, hai visto? Tanto casino, tante cose, vanno un po'. Ma... Di cosa? Beh, non avrà bisogno di... Se va tutto questo qua, fa tranca. Sì, Roberto, però... Se si fa qualche scherzo, qualcosa... non è che c'è bisogno di fare polemiche, tanto c'era un corso quelli allucinanti, poi era matta qualche leone, ragazzi. Ma io, ma qui, amplificati, controlli, via. Mi scusano, noi siamo poveri, stavo dicendo Antonio Guarda, ma la radio va bene così com'è, con la Androtta 50, sempre la mia. Come piace a te, dai. Anche questa del 50 pensavo fosse più delicata rispetto al 140. Va bene, va bene. Sentirò la ventola, fa un casino di Gesù Cristo che ha premiato il tuo membro. Non si sente la ventola. Cioè questa non la, evidentemente non è una frequenza che non si tira dentro, però la voce è la tua. Ma che cos'è l'MC60? Allora, maravai, che tutto sarà buono lì, buono, c'è ragione già, però io l'ho fatto anche presente ieri che non mi lamento mai, né delle modulazioni alte né niente, non mi interessa più di tanto, non mi piace alcune cose, sto qua. L'ho riprecisato, già, se tu hai notato, già l'hai visto che non mi lamento mai, magari ti sei esatto, se non va bene te lo dico, ma di altro no, non me ne importa nulla, hai capito? Fatta così. Ehi, vabbè, non è un problema questo, sì, dove è l'MC60 questo, con l'850 della Kenwood sempre, è la ventola che senti, è l'amplificatore che è in marcia, giusto per farlo un po', tenerlo sotto controllo, e basta. Un secondo che mi ha chiamato Anna, non so solo, arrivo subito. Eccomi qua, scusa, allucinante grode. Che è successo? Yeah. 15 euro, quello lì si porta a casa 300 euro e più, e tu 50 euro scarsi. Volete dire che se la donna la macchina viene 2:10, non al giorno, ma dopo la notte, che vergogna, cioè siamo arrivati proprio alla frutta, siamo arrivati proprio alla frutta, vabbè. No, non è tanto giusto una cosa del genere. Te li immagini con voi? 4 euro. Adesso non perché voglio sapere i cacchi tuoi, ma più o meno lo so perché a me la porta, lo sai Antonio, con Mario la bombola, ma mi pare che sia 5 euro la bombola che guadagnano il bombolaio. Una cosa del genere, vabbè, minimo la paghi 29. Sì, mi fa 29 per la tomando 30. La porta qua me la fa pagare 29, ma tu immaginati in grotte, cioè 5 euro a bombola, la consegni e si è finito lì, ok? Ed è giusto che sia così, perché c'è il macchinaggio, la preparazione, il caricamento, scaricamento eccetera, quindi è chiaro che tu devi pagare se vuoi che io te la porti, e va anche bene, più che bene, ma buongiorno, buonasera, ecco qua le 10, ciao, e te ne va. Per lavare la macchina, secondo come ci vogliono le mezzo 2 ore. Lo so. Vabbè, perché non ha girato i giochi, se n'è andato, scusa. Ma tu la vuoi sapere una cosa? E Anto? Io so che abbiamo due figli. Che ci avete? Non ti ho capito. Due prezzi diversi ci abbiamo, da quelli della zona a quelli fuori. Perché siccome la gente si crede di fare la formazione, cercano di fare i corsi e quanti, allora stiamo adottando questo sistema, stiamo adottando. E praticamente dicendo in facendo la piazza mi era un po' quasi intelligente. Ma è giusto, ognuno deve fare il suo lavoro, capito? No, a me Antonio e Mario me la danno a 29, però in questa zona la portano a 30 loro. Perché ho tenuto lo stesso loro, capito? Altrimenti avremmo fatto diversamente, anche perché voi siete molto più vicini, quindi non c'è problema. Però c'è stato sempre il rapporto di amicizia, se rimango la domenica senza bombola, vado da Antonio e suono il campanello e me la danno, ci sono problemi a qualsiasi ora, me l'ha sempre fatto. E quindi ho mantenuto questo rapporto. In altre occasioni, non so. Precisamente. Ma lo sai che prima era, le portava qua a casa, io conto molto, molto, molto bene. Viene, quelli non ce li devi mangiare, non vuole Antonio. Oh, è una birbante. Era il bombolaio nostro prima, si può immaginare se lo riconosco già da quell'epoca che li conosciamo, ma poi lo conosco molto bene perché ci troviamo lì a caricare tutto quanto, che riconosco da una vita. Ma non era con voi, era socio vostro, non ho capito. Nostro prima di entrare io a lavorare, prima di entrare noi a lavorare, dai. Antonio o Mario? Cosa? Antonio, poi, veniva qua a portare le bombole, proprio Ezio, lo vecchio. No, Gabino, proprio l'umano le portava. Ah, signor Gabino, capito. capito. Ho capito. No, qua viene Mario. Antonio si occupa della bassa valle. Qua viene Mario con la stessa macchina che ci avete voi con la strada. Proprio lì. Capito. Va bene. A me Antonio, che si dice? Non è lavorato ieri, non ci è andato troppo. Da Santa Maria Colina, ma ne stava scendendo il diluvio universale. Capito. Vabbè, non ieri, avanti ieri. No, ieri. Adesso da domani ci sono 3 giorni a Sarda. Sarda invegliai. A Sarda. Non si chiama Sarda, è il paese. Minchia, quanto è lontano, grazie. Madonna. Ma no, come prima di Urbia? Un paese. Sarda, non Sarda. Sì, Arda. Adesso Sarda è vicino a Cagliari. Arda, sì, Arda è qua, 20 km da Sassari. Arda, ho sbagliato io, Arda. 810 abitanti. È piccolino. Capita. No, Anto, quando entri all'ingresso del paese a Santa Maria Colina, American Bar. C'è ragione, mi fa ridere. È la prima cosa che ho notato quando sono arrivato, vedete voi. Quello che non lo conosca io, è a voi che lo conosco quel paese lì. Ogni tanto andiamo a fare visita ai parenti. Che parenti a Santa Maria Colina, sai? Seppure mio nonno che c'ha la somma lì. Ogni tanto andiamo lì, andiamo. O di lì sono, dai, dalla parte di papà. Dalla parte di mamma no, sono cattarese. Dalla parte di tutti i papà no, sono di Santa Maria Colina, sono di quella zona. Ho capito. Immaginate che io ci ho fatto a Santa Maria Colina sulla Ledoria, ci ho fatto più di 2 anni. Si fa bene, fanno anche una bella sagra d'estate, che è la sagra della pecora o dell'agnellarrosto, del cinghiale, se non mi ricordo. Comunque è un bel paesino, eh. Si fanno una sagra del cinghiale, anche la sagra del porcetto. E praticamente la fanno a 100 metri dall'impianto, dove c'è quella piazza in fondo al paese, dai. Quella via nazionale si chiama, quasi la fine via nazionale per girare verso Perfugas, per andare a Vidalba e per girare verso Perfugas lì. Bravo, sì, proprio lì, come mi ricordo era una piazza. Sì, dove c'è il campo sportivo praticamente, lì nei parcheggi del campo sportivo. Se tu stai attento, guardi avanti e c'è l'impianto di depurazione. E da proprio sulla strada, sull'acqua, verso lo scorrimento veloce. Parogero, scusate un attimo, che sto cercando di spedire un email, non sto capendo niente. Ma gamba, noi ogni tanto ci andiamo lì. Perché abbiamo i parenti e poi anche perché c'è mio nonno lì, li porta, mia nonna li porta i fiori, li porta tutto quanto, poi siamo un po' lì, facciamo dei parenti e andiamo, capito? Ho capito. Ma voi siete quindi nativo, Pierpaolo è nativo di quella zona? Ma è nato lì, esatto. Proprio di quel posto lì. Però è stato così sulla Santa lì. Dopo, mi sembra che siamo 3 o 4 anni, o 5 anni, è venuto qua a Santa lì. Capito? Io già sono una da Sassari, mamma è sassarese, mio nonno era sassarese, dalla parte di mamma, non te lo posso dire in radio chi è, ma uno è famoso a Sassari, il nonno, lo soprannomo va, che suonava Rugandarere, va, ma lo soprannomo è, c'è un soprannome molto noto a Sassari. Che portava il candeliere? Lo sai, sono dall'83 a Sassari, no? Non è che le seguo molto queste manifestazioni, Non lo so. Quello che ho conosciuto più di tutti è Laino Bianco. No, era il nonno di mia madre. Era dalla parte della mamma. Ed era con i figli, certo dice verticale, perché qua non mi va di dirlo. Erano i cunici che erano che si suonavano in tamburo, ma sto parlando un sacco di anni fa. Uno era quello giusto. Hai capito? Giuseppe sta dicendo, ho capito. Non c'è problema, è quasi nuovo, è che cosa usano meno potenza, così che non riesco a tirarlo fuori. Ci ho sentito altre volte. Cazzo. Ma cosa sto usando? C'è con la Rinco, sì. Sto usando la Rinco, sto usando il Galaxy Book. L'antenna, c'è con la Rinco? Sì, credo di sì. Allora, va. Credo di sì. Bisogna avere... Per te, già, non c'è la fascia con la Rinco. Grazie a tutti, ciao Antonio Grotta e a tutti quanti, ciao, buonanotte.